Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, oggi siamo qui con Bruna Gambarelli di Laminarie, Dom La Cupola del Pilastro, che è qui per raccontarci i prossemi, che è un po' quelli che sono, diciamo, gli appuntamenti principali in opera che verranno presentati. Sì, questo progetto si chiama Prossemica ed è un progetto speciale che abbiamo ideato pensando agli spazi di relazione tra centro e periferia che producono arte e che hanno desiderio di mettersi in connessione tra loro. Sono diversi appuntamenti. Il primo appuntamento è il debutto in prima assoluta dello spettacolo Edifici, Vite che non demordono, che sarà l'11 dicembre alle 20:30 nella Sala Grande dell'Arena del Sole. Si continua il 17 dicembre a Dom La Cupola del Pilastro con una proiezione del film Il Pilastro, regia di Roberto Beani, produzione Lab Film, e poi ci saranno una serie di appuntamenti disseminati tra gennaio e marzo che coinvolgeranno 5 spazi di edilizia residenziale pubblica non abitativa. Si inizia il 28 gennaio in una doppia tappa tra via Miramonte 10 e via Mirasole 33, poi si proseguirà il 26 febbraio in via Santa Caterina in collaborazione con la Compagnia della Quarta, e il 26 marzo in via Santa Pollonia in collaborazione con la realtà Otago. Poi ci sarà uno spazio invece al Pilastro che è in via D'Annunzio 19. Tutti questi appuntamenti, a parte lo spettacolo, sono ad ingresso gratuito, solo su prenotazione, e hanno, diciamo, l'obiettivo di riflettere su come oggi abitiamo una città, come abitiamo l'arte, facendo in qualche modo riverberare i temi dello spettacolo all'interno di questi luoghi semi sconosciuti attraverso attività performative e installazioni. Tra i vari appuntamenti, diciamo, ho sentito anche di la presenza comunque di persone importanti e anche registi, diciamo, esteri e racconti un po' esteri, oltre che la realtà bolognese. Se vogliamo un po' raccontare anche in generale qualcosina in più, qualche appuntamento che magari è più specifico, qualche cosa particolare, insomma. Ma l'appuntamento che ritengo più importante, perché è propulsivo dell'intero progetto, credo che sia il debutto dello spettacolo Edifici, Vite che non demordono. All'interno di questo lavoro abbiamo voluto portare la poetica della compagnia, coinvolgendo nell'opera il racconto di due artisti, Varlam Tikhonovic Shalamov e Jackson Pollock, e della loro modalità di vivere lo spazio attraverso l'arte. Ripeto, a mio parere l'appuntamento più importante, che poi, diciamo, ci accompagnerà per tutti gli altri appuntamenti fino a marzo. E poi eventualmente, per tutte le varie informazioni, che un po' ne abbiamo già dette, si possono reperire su? Sul sito laminarie.it. Ripeto, sono tutti ad ingresso gratuito, ma a prenotazione, quindi se siete interessati a info@laminarie.it. La prenotazione è consigliata perché gli spazi non sono tutti molto grandi. Io ti ringrazio molto e vi auguro una buona rassegna. Grazie a voi.